Capitolo 17. Quello fu veramente un giorno di trionfo per Mr. Bertram e per Maria. Una simile vittoria sulla prudenza di Edmund. Una vittoria che andava al di là delle loro speranze. Li riempì di esultanza. Non vi era più nulla in grado di ostacolare il loro amato progetto. Si rallegrarono insieme, privatamente, per la debolezza di Edmund. Una debolezza dovuta alla gelosia. Egli aveva un bel mantenere, un aspetto solenne, ripetere che il progetto in tutto il suo insieme non gli piaceva e che in particolare disapprovava la scelta di quel testo. Loro l'avevano spuntata, avrebbe recitato. E vi era stato spinto e indotto unicamente dalla forza di inclinazioni egoistiche. Era sceso dal piedestallo dei suoi alti principi morali e da questo suo abbassarsi loro si sentivano giustificati, ne erano sollevati e contenti. Tuttavia si comportarono benissimo nei suoi confronti e ogni qualvolta se ne presentò l'occasione non tradirono la propria esultanza se non con una leggera increspatura, quella del riso trattenuto agli angoli della bocca. E gli fecero credere di ritenere che l'essere sfuggiti all'intrusione di Charles Maddox, altrimenti necessaria, era considerata da loro una vera fortuna, proprio come se prima si fossero sentiti costretti ad ammetterlo controvoglia nella loro compagnia. Mantenere il tutto nell'intima cerchia familiare era quanto avevano desiderato sopra ogni cosa. Un estraneo fra loro avrebbe impedito ogni vera libertà, ogni genuina disinvoltura. E quando Edmund, prendendo lo spunto da quelle buone disposizioni, espresse la speranza che la presenza del pubblico venisse limitata, furono pronti nella loro temporanea condiscendenza a promettere tutto quanto gli desiderava in proposito. Erano tutto buon umore e incoraggiamento. Mrs. Norris offrì di occuparsi lei del costume di Edmund. Mr. Yates le assicurò che l'ultima scena in cui Anhalt compariva col barone gli avrebbe offerto il destro di mettervi molta azione e di esprimersi con compiacente enfasi. E Mr. Rushworth si diede a contargli il numero delle battute. «Forse», disse Tom, «ora Fanny sarà meglio disposta ad accontentarci. Può darsi che tu riesca a persuaderla». «No, è assolutamente decisa, certamente non vorrà recitare». «Oh, va bene». «E non se ne parlo più, ma Fanny si sentiva di nuovo in pericolo e la sua recente indifferenza in proposito cominciava già a venire meno. Intanto, alla canonica, la mutata decisione di Edmund veniva accolta con altrettanti sorrisi. Miss Crawford, il cui volto illuminato dalla gioia appariva ancora più grazioso, affrontò l'argomento con così spontanea e rinnovata gaiezza che la cosa non poté rimanere senza effetto su Edmund. «Certo», pensava, «aveva avuto ragione di rispettare i sentimenti di lei, lieto di aver preso quella decisione». E per tutta la mattinata provò un senso di soddisfazione dolcissima, anche se in fondo non proprio genuina. Dalla capitolazione di Edmund, Fanny trasse un vantaggio. Su richiesta di Miss Crawford, Mrs. Grant, con l'abituale buon umore, accettò di assumere la parte per cui Fanny era stata sollecitata invano, e durante quella giornata fu questo il solo avvenimento che le sollevò il morale. Però, quando Edmund lo commentò, provò una stretta al cuore perché era a Miss Crawford che doveva ciò. Era Miss Crawford che aveva insistito in tal senso, Miss Crawford il cui merito per quell'iniziativa veniva descritto con calda ammirazione. Dunque lei era salva, ma si accorse che la salvezza e la pace interiore in questo caso non andavano di pari passo. Il suo spirito non era mai stato più lontano dalla serenità. Sapeva di non avere fatto nulla di sbagliato, ma si sentiva inquieta per molti altri motivi. Tanto il suo cuore quanto il suo giudizio si pronunciavano contro la decisione di Edmund. Non riusciva ad assolverlo della sua mancanza di fermezza. E il fatto che egli fosse così manifestamente felice la sconvolgeva. Era colma di inconscia gelosia e di agitazione. Miss Crawford sopraggiunse con un aspetto ilare che le sembrò un insulto. E nei suoi confronti fu tutta amichevoli espressioni alle quali trovò difficile rispondere con calma. Tutti intorno a lei erano allegri, indaffarati, paghi e importanti. Tutti avevano un proprio centro di interesse. La parte, il costume, la scena preferita, gli amici, gli alleati, tutti erano intenti a consultare, a confrontare, a suggerire scherzose ricercatezze e a riderne insieme. Solo lei era triste e insignificante, esclusa da qualsiasi genere di partecipazione. Poteva andarsene o rimanere, starsene ad ascoltare in silenzio il loro chiacchiericcio o ritornare nella solitudine della sua stanza ad est, senza che se ne accorgessero o sentissero la sua mancanza. E quasi era indotta a pensare che ogni altra cosa sarebbe stata preferibile a questa situazione. Mrs. Grant era importante. La sua compiacenza meritava una menzione onorevole. Il suo gusto e il tempo di cui disponeva per loro erano tenuti in considerazione. La sua presenza era necessaria. Era richiesta e corteggiata e lodata e Fanny, in un primo momento, quasi corse il pericolo di invidiarle la parte che lei stessa aveva rifiutata. Ma la riflessione la ricondusse a sentimenti migliori e le fece capire che Mrs. Grant aveva diritto a un rispetto che a lei non sarebbe mai stato concesso. Non solo, ma se anche gliene avessero mostrato altrettanto, non si sarebbe mai sentita a suo agio, prendendo parte ad un'attività che anche solo in considerazione dei ben risaputi principi dello zio si sentiva costretta a condannare senza rimedio. Il suo tra loro non era certamente il solo cuore in preda alla tristezza. E ciò ben presto le apparve evidente. Anche Giulia soffriva, benché, a differenza di Fanny, non proprio senza averne colpa. Harry Crawford aveva scherzato con i suoi sentimenti, era vero, ma lei aveva permesso a lungo di rivolgerle le sue attenzioni, anzi le aveva sollecitate, piena di una gelosia per la sorella che proprio perché chiaramente motivata avrebbe dovuto senz'altro bastare a curarla dalle sue illusioni. E ora che l'evidenza della parzialità di lui per Maria le si era imposta in modo inequivocabile, l'ammetteva dentro di sé, senza provare alcuna preoccupazione per l'ambigua posizione della sorella e senza fare nessuno sforzo per riacquistare la propria ragionevolezza e il proprio equilibrio. O se ne stava seduta nel silenzio più cupo, ammantata di una gravità che nulla riusciva ad attenuare, nemmeno la curiosità né un motto di spirito, oppure accettava le attenzioni di Mr. Yates. Conversava unicamente con lui con gaiezza forzata e metteva in ridicolo il modo di recitare di tutti gli altri. Un giorno o due, dopo averle inflitto la cocente mortificazione, Harry Crawford aveva tentato di rabbonirla col suo solito fare galante, profondendosi in complimenti, ma il risultato non gli premeva tanto da indurlo a perseverare dopo le prime ripulse. Ed essendo ben presto troppo impegnato con la recita per trovare il tempo di mandare avanti più di una schermaglia galante alla volta, il bisticcio gli divenne indifferente, o ancor meglio, lo considerò una felice occorrenza, poiché poneva quietamente fine a una situazione che presto o tardi avrebbe potuto far nascere incresciose aspettative in altre autorevoli persone, oltre che in Mrs. Grant. A lei non aveva fatto piacere vedere Giulia esclusa dalla recita, vederla lì seduta in disparte, ignorata da tutti. Ma siccome non era una cosa in cui la sua personale felicità si trovava seriamente implicata, e siccome Harry era certo il miglior giudice di quanto occorresse alla propria, e inoltre le aveva assicurato col più persuasivo dei sorrisi che né lui né Giulia avevano mai seriamente pensato l'uno all'altra, si era limitata a rinnovare le già fatte raccomandazioni di prudenza a proposito della sorella maggiore e a pregarlo di non mettere a repentaglio la propria tranquillità, lasciandosi andare a una troppo palese ammirazione per lei. Dopodiché aveva preso a interessarsi attivamente di tutto quanto poteva alimentare l'allegria nel gruppo dei giovani in generale e che in particolare procurava un così evidente piacere ai due che le erano tanto cari. Mi chiedo se Giulia non si sia innamorata di Harry, confidò a Mary. Io credo che lo sia, rispose questa col massimo sangue freddo. Suppongo che lo siano tutte e due le sorelle. Tutte e due? No, no, non può, non deve essere, non glielo mettere in testa. Pensa a Mr. Rushworth. Beh, farebbe meglio a dire a Miss Bertram di pensare a Mr. Rushworth. Potrebbe farle bene. Io penso spesso al patrimonio e all'indipendenza di Mr. Rushworth e vorrei vederle in mani migliori, ma per lui non spreco un pensiero. Un uomo con una proprietà di così grande importanza dovrebbe rappresentare la contea a Londra. Nella sua situazione non ha bisogno di scegliersi una professione e ha invece il dovere di rappresentare la contea. Oh, beh, immagino che presto entrerà a far parte del Parlamento. Quando Sir Thomas sarà di ritorno, penso che lo indurrà a porre la sua candidatura per una qualche borgo della regione. Finora non ha avuto nessuno che lo istradasse. Sir Thomas avrà veramente le mani piene al suo ritorno, disse Mary dopo una pausa. Ricorda l'indirizzo al tabacco di Hawkins Brown, in imitazione di Pope? Foglia benedetta la cui aromatica brezza dispensa modestia ai templari, senso comune ai parroci. Beh, io ne farò la parodia. Cavaliere benedetto la cui dittatoriale presenza dispensa ai figli prosperità, senso comune a Rushworth. Non calzerebbe bene al caso, Mrs. Grant? Ogni cosa qui sembra dipendere dall'arrivo di Sir Thomas. Troverai molto giusta e ragionevole l'importanza attribuita alla sua presenza. Quando lo vedrai in seno alla famiglia. Non mi pare che qui le cose vadano molto bene senza di lui. Egli ha bei modi dignitosi, quali ci si aspetta dal capo di una così importante casata, e mantiene ciascuno al proprio posto. Ora Lady Bertram sembra essere uno zero ancora più di quanto lo sia quando lui è in casa. E nessun altro può mantenere in riga Mrs. Norris. Ma Mary, non immaginare che Maria Bertram sia innamorata di Harry. E sono certa che neppure Giulia lo è, o non avrebbe scherzato come ha fatto ieri con Mr. Yates. E benché Harry e Maria siano ottimi amici, penso che Sotherton le piaccia troppo perché si lasci indurre all'incostanza. Ma non darei molto per le probabilità di Mr. Ashworth se Harry si facesse avanti prima della firma del contratto nuziale. Se hai un simile sospetto, bisogna fare qualcosa, appena questa storia della recita sarà finita. Dovremmo parlargli seriamente, chiarirgli un po' le idee, e se non ha intenzioni serie lo manderemo via per qualche tempo, anche se è il nostro Harry. Giulia soffriva realmente, anche se Mrs. Grant non se ne rendeva conto e se la cosa sfuggiva all'attenzione di molti membri della famiglia. Aveva amato, amava ancora, e gliene derivava tutta la sofferenza che un'indole vivace e un temperamento appassionato erano capaci di risentire. Le bruciava la delusione cagionata dalla fine di una cara, anche se irragionevole, speranza. Le bruciava la netta sensazione di avere ricevuto un affronto. Il suo cuore dolente ed esasperato trovava conforto solo in pensieri di dispettosa rivincita. La sorella, con cui era stata solita vivere in buona armonia, era diventata ai suoi occhi la sua peggiore nemica. Erano ormai alienate l'una all'altra e Giulia non si interdiceva di sperare una brutta fine per le attenzioni che venivano tributate alla rivale. Desiderava una esemplare punizione per Maria, che si comportava in modo così vergognoso nei suoi riguardi e in quelli di Mr. Rushworth. Senza avere un'indole veramente cattiva o delle divergenze d'opinione che impedissero loro di essere, in linea di massima, ottime amiche, purché i loro reciproci interessi non si scontrassero, le sorelle, sottoposte a quella prova, non avevano principi abbastanza saldi e affetto bastante a farle pietose e giuste l'una verso l'altra e a indurle ad agire secondo onore e compassione. Maria godeva del proprio trionfo e perseguiva il proprio scopo senza curarsi di Giulia. E Giulia non poteva vedere Maria corteggiata da Harry Crawford senza sperare che ciò destasse la gelosia di Mr. Ashworth e alla fine provocasse un pubblico scandalo. Fanny vedeva e capiva molto di tutto ciò e compativa Giulia, ma non vi era una vera confidenza fra di loro. Giulia non le diceva nulla e Fanny non si prendeva la libertà di parlare per prima. Erano sole nella sofferenza e legate soltanto dalla consapevolezza di Fanny. La mancanza di attenzione da parte dei due fratelli e della zia verso il pur evidente turbamento di Giulia e la loro incapacità di vederne la causa erano dovute agli interessi del momento che li assorbivano interamente e da cui erano completamente dominati. Tom era preso dalla gestione del suo teatro e non vedeva nulla all'infuori di quanto era in diretta relazione con esso. Edmund, diviso tra la parte che doveva fare sulla scena e quella che stava vivendo nella realtà, tra le esigenze di Miss Crawford e quelle della sua propria condotta, diviso, insomma, tra l'amore e la coerenza, era ugualmente incapace di osservare quanto gli avveniva intorno e Mrs. Norris era troppo indaffarata nel risolvere i piccoli problemi della compagnia e nel tentativo di dirigere ogni cosa, sovraintendendo alla scelta dei costumi e ricorrendo ai più vari espedienti per economizzare, senza ottenere alcun ringraziamento in proposito. ma paga e deliziata di risparmiare una mezza corona qua e là a beneficio dell'assente Sir Thomas, per trovare il tempo di tenere d'occhio il comportamento delle figliuole di lui o per proteggerne la felicità.